X24, la storia. Il 12 febbraio del 1923 nasce a Firenze Gianfranco Corsi Zeffirelli, un grande italiano, un grande regista di cinema, di teatro lirico, che ha avuto successo in tutto il mondo e ha portato l'arte italiana a vincere sui palcoscenici e sugli schermi di tutto il mondo. Oggi a Mix 24 raccontiamo la sua storia, il ritratto di un artista. Are you going to Scarborough Fair? Gianfranco Zeffirelli nasce da un padre e una madre, ma non da una famiglia. È il 12 febbraio 1923 e Franco Zeffirelli nasce figlio illegittimo di Ottorino Corsi e Alaide Garosi. La madre è una famosa sarta fiorentina con un importante atelier al numero 2 di Piazza Vittorio Emanuele. All'ospedale degli Innocenti di Firenze, come ci racconta, riceverà il suo cognome. All'ospedale degli Innocenti a Firenze, da quando è stata fondata, da quando è cominciato il calendario degli Innocenti, e le lettere dell'alfabeto si succedono. E quindi il giorno in cui tocca A, tutti i bambini che vengono ricoverati o raccolti quel giorno, se gli si deve dare un nome, si dà che cominci con A. E il mio giorno era la Z. Mia madre, che era una grande innamorata della musica, specialmente musica classica, Mozart e così, pare che disse Franco Zeffiretti, e lo scriba sbagliò, invece di due T mise due L, quindi rimasi, per un errore di trascrittura, rimasi Zeffirelli, che è l'unico Zeffirelli che ci sia al mondo. Il che mi dà un po' di vanto e di orgoglio. Sono singolo, sono unico, nel bene e nel male. L'infanzia e l'adolescenza di Gianfranco Corsi Zeffirelli sono difficili. La madre muore l'8 maggio del 1929. Zeffirelli ha solo 6 anni. Il rapporto con il padre sarà controverso. Decide di riconoscerlo solo dopo, all'età di 18 anni. Ma per lui, come dichiara, è ormai troppo tardi per cambiare cognome. I primi anni da bambino, alle elementari, dove dovevamo dire i nostri nomi, il nome dei genitori, la famiglia, insomma, mi imbarazzò molto, molto, mi rese molto difficile il percorso, e ogni tanto poi, anche più tardi, quando ero più grandicello, ritornava a galla l'idea che io fossi un bastardo tra i compagni di scuola, cioè, la mamma qui, la mamma là, eccetera. Bastardo a Firenze non si diceva, si diceva figlio di. Quindi sì, me lo sono portato con un pesettino, ma in realtà poi ho fatto la mia vita di bambino, di adolescente, tranquillamente. Piuttosto più tardi, quando ho cambiato nome, quando mio padre mi ha finalmente riconosciuto come figlio legittimo, dopo la morte di mia madre, dopo la morte di sua moglie, e allora avevo 18 anni, era un po' più difficile cambiare da Zeffirelli in Corsi. Il rapporto extraconiugale tra la madre e il padre di Zeffirelli fa scandalo a Firenze e traccia, come lui stesso descrive, nel suo immaginario il ricordo di una madre sofferente e di un padre indifferente. Questa passione fece chiacchierare tanto Firenze, passione fra mio padre e mia madre, erano entrambi sposati. Lei aveva il marito agonizzante da lunga malattia, questa donna ancora giovane che mandava avanti tutta una grossa ditta, una grossa azienda, aveva per sé come donna ben poco. E mio padre ne approfittò perché sentì che c'era una vittima pronta, una preda pronta. Insomma, fiorì una grande storia d'amore che mandò per aria tutti i parametri del pettegolezzi fiorentini. Insomma, mia madre ne fu travolta, tra l'altro, anche ebbe dei danni irreparabili al suo lavoro, perse la clientela, perché era una grande sarta a Firenze. Mio padre si defilò, aveva la sua famiglia. Qualche volta non gli perdono il male, che il dolore che ha portato a mia madre, ma io ho delle lettere che lei gli ha scritto quando agonizzava, praticamente, veramente molto, molto dolorose. La donna ha sofferto moltissimo, e quello forse nella mia psiche infantile, anche di adulto e anche di anziano come sono adesso, ogni tanto riaffiora il dolore che mia madre ha subito per questa situazione. Altrimenti mio padre era una specie di Mastroianni, così, che saltava di palo in frasca, sempre gli piacevano le belle donne, alte, vivaci, e mia madre corrispondeva esattamente a questa tipologia che gli era così, congeniale. Non lo stimo, ecco, però gli voglio bene perché è stato quello che mi ha, dopo tutto, come mi disse lui quando facciamo una famosa scenata: ma cosa racconti, ingrato, io ti ho dato la vita, se non c'ero io con l'amore che ho avuto per tua madre tu non saresti mai esistito. E questo mi ha tappato la bocca per sempre. Mix 24, la storia. Rieccoci a Mix 24, quella che raccontiamo oggi è la storia di uno dei più grandi artisti italiani, Franco Zeffirelli. Nato nel 23, Zeffirelli rimane orfano di madre e di padre che fino a 18 anni non lo riconoscerà. Caterina di San Marco, sono nella mia adolescenza. Da bambino, sì, così, stavo dalle monache Santa Riparata, dalle monache Sisters inglesi, avevo questo insegnante inglese. Cioè, poi, crescendo un po', entriamo nelle associazioni cattoliche, verso i 12-13 anni. E siccome noi abitavamo a Piazza San Marco a Firenze, quindi era davanti. Anche mia zia, che mi aveva quasi adottato, quando sapeva che stavo dai frati di rimpetto, era molto più tranquilla. Poi c'era un bellissimo ambiente, io fui adibito all'associazione cattolica, dove noi andavamo a giocare a ping pong, a giocare, a fare tutti i nostri giochetti, compiti, letture, raccontare barzellette, quelle cose che si facevano come un clubino, insomma, di noi ragazzi. E lì è cominciato il mio lungo sodalizio con San Marco, sì. È cominciato lì dove ho appreso anche le prime luci dell'arte. C'era un frate molto caro, si chiamava Padre Spinillo, che era pittore, e attraverso di lui mi fece capire la bellezza. Poi le celle dei frati erano tutte affrescate da Beato Angelico e dai suoi allievi, quindi proprio c'entravo dentro a, come si dice, a crash therapy, in bagno, per immersione. Al Collegio di San Marco, Zeffirelli è allievo di Pietro Annigoni, artista fiorentino che, come ricorda, per lui rimarrà un riferimento anche negli anni di studio all'Accademia delle Belle Arti. Annigoni, Pietro Annigoni, volle affrescare il Cenacolo. Io ebbi invece il grande piacere di essere suo allievo e impastargli i colori. E noi che studiavamo a fresco all'Accademia, che è una tecnica affascinantissima, è ancora più affascinante vederla fare da un maestro. E noi assistevamo a questa specie di reincarnarci di una situazione di cui noi fruivamo lo straordinario privilegio di partecipare in qualche modo, ma che era parte di una tappa di un lungo percorso dell'arte fiorentina, perché innegabilmente Annigoni era radicato nella grande tradizione dei grandi maestri. Quando vedi la crocifissione di Annigoni e tante altre cose di Annigoni, rimane ghiacciato, perché è veramente la continuazione. E noi che studiavamo come continuare o come raccogliere quel messaggio del passato, vedevamo in lui la reincarnazione del passato. Nel Collegio San Marco vive Giorgio Lapira, futuro padre della Costituente e amatissimo sindaco di Firenze negli anni 50. Negli anni 20 Lapira è un giovane professore siciliano da poco arrivato a Firenze. Per Zeffirelli è un incontro decisivo. A San Marco ho conosciuto Giorgio Lapira, che era ospite, viveva nel convento di San Marco. Lui era un cattolico, un terziario, e insegnava storia del diritto romano all'Università di Firenze, che era a 300 metri da San Marco. Per noi era il professorino e veniva con noi a giocare, giocava a ping pong, si occupava di ognuno di noi, voleva sapere i nostri problemi, come andavamo a scuola, e ci diceva, quando eravamo un po' incerti sulle interrogazioni il giorno dopo, diceva: non importa, pregate la Madonna di proteggere lei, vi farà rispondere bene, vi metterà l'oro in bocca. Poi sono stato con lui il protagonista di una scena agghiacciante, parlando della mia situazione familiare, che ero figlio di ignoti, quindi non avevo la mamma. Giocavamo a pallone così, e io ero bravino perché ero uno dei più sportivi del gruppo. A un certo momento un compagnaccio, ci fu una rissa fra me e lui, e a botte, cazzotti, schiaffi, e lui un occhio sanguinava, disse: "Dai, figlio di una ta, ta, ta." Un attimo dopo, nel momento in cui rimase innaffiato, vidi arrivare questo frugoletto di rapira che agguantò questo ragazzo, lo prese per le braccia scuotendolo, dice: "Stai zitto, non ti permettere mai più di dire queste cose." E si voltò verso di me, mi prese per mano, non c'era niente, vieni. E si infilò questa bellissima scalone che va al convento. In cima, sul pianerottolo in cima, lì in una luce perfetta, c'è l'Annunciazione di Beata Angelica. Arriviamo lassù in silenzio, ero tutto, io piangevo, mi portò lì e dice: "Guarda, questa è tua madre. Mai dubitare della propria madre, ricordatelo. La tua madre è la Vergine. Qualunque cosa sia successo in questa terra, tua madre è la Vergine, è la Santa delle Sante. Ricordatelo." Mi mise in pace con molti problemi che avevo da fanciullino, e ogni volta che passo lì mi si stringe il cuore, perché è un messaggio meraviglioso d'amore. Ave Maria. Ci educava poi in maniera sempre tangenziale, mai diretta, con l'esempio, con una citazione, facendoci vedere una cosa. Era eccezionale. Io ho saputo subito che era difficile noi ragazzini capire che Mussolini era un mascalzone. Ma lui, tra lui e padre Coiro, ce lo fecero subito chiaro, subito, e io sono rimasto antifascista, sono stato antifascista subito. Nel 1937 Hitler e Mussolini si incontrano a Firenze. Nella città vengono sbandierate svastiche e intonati gli inni della dittatura. Mi ricordo che avevo un fucilino con una baionettina e ci avevamo svegliato alle 3 di mattina per vestirsi, per radunarci, per andare, avevamo marciato e esercitato tanto per essere, per vedere la faccia guerriera della giovane Italia al Führer, e ci misero lì vicino alla stazione, in fila noi balilla. Il duce è primo a salutare l'ospite. I due condottieri si avviano ora verso l'automobile che accompagnerà il capo del Reich a Palazzo Pitti. Quando passarono questi due scellerati, mi trovai con la mia baionetta davanti agli occhi. E c'era un bagliore di sole, me lo ricordo perfettamente, come un'inquadratura di un film. E in questo bagliore di sole vidi la Mercedes, o quella che era, scoperta con questi due. Firenze ha tratto in mostra per Hitler tutti i suoi vessilli, dal giglio purpureo, le gloriose bandiere delle sue arti e dei suoi rioni. Quello fu nel maggio del 37, sì. Che poi era piovuto moltissimo e venne il sole proprio quel giorno. Ma la città era una meraviglia, vedersi festoni, gonfaloni dovunque. Poi ci presero e ci portarono, perché Hitler e Mussolini fece tutto un giro in città, e noi, come si fa con le comparse dell'Aida, ci portarono a Palazzo Pitti. Con me il fascismo non ha mai attaccato. La guerra sta per finire e Zeffirelli viene arruolato tra i reparti della Repubblica di Salò. Ero di leva a 19 anni con la Repubblica di Salò, e nessuno di noi del nostro gruppo voleva naturalmente andare a combattere con Mussolini, e poi sapevamo che gli alleati arrivavano, erano già in Sicilia, ma la guerra era fatta. Allora le ipotesi erano: o ci si nascondeva in casa o in campagna o nei monti, o andare in Svizzera o attraversare le linee, ma tutte ipotesi molto confuse. Quella più pratica era di raggiungere i partigiani. Io avevo una resistenza perché sapevo che i partigiani erano pieni di comunisti, e allora andammo dalla Pira, eravamo tre amici, tutti nella stessa situazione, e gli esponemmo la nostra casa, dicevamo: "Potremmo fare questo, oppure andare lassù in montagna, e dalla finestra sua si vedeva Monte Morello, dove ci diceva che c'erano i partigiani, dove sapevamo che saremmo dovuti andare." E lui diceva: "No, di tutte queste cose, tanto il mondo va avanti." Non prevalebunt. Andate lassù, ma state ben attenti, perché comunisti, fascisti e nazisti sono la stessa cosa. E tutti e tre non prevalebunt. Dopo Dopo aver affrontato la guerra, frequentato l'Accademia di Belle Arti, Zeffirelli esordisce come scenografo nel secondo dopoguerra, curando una messa in scena di Troilo e Cressida nel 1949, diretta da Luchino Visconti. Compie, insieme a Francesco Rosi, le prime esperienze nel cinema come aiuto regista dello stesso Visconti. Così lo descrive la sua collaboratrice di vita e amica, Suso Cecchi D'Amico. Lo aiutammo a inserirsi, mettemmo a fare, aveva bisogno di fare tutto e tutte le esperienze. Io avevo scritto l'onorevole Angelina Contellini per la Magnani, e allora già stavano girando, lui fece il figlio della Magnani, che poi a un certo punto diventa un altro, ma insomma allora non ci si faceva tanto caso. Pazienza, perché Luchino lo chiamò a fare lo spettacolo a Firenze, lui lasciò tutto, e Zappa dice, ma sì, pazienza, c'è una piccola cosa, il figlio è cambiato, se lo guardi il film è un altro, dice, cosa è successo? Se io riguardo a quello, come sono andate le cose nella mia vita, anche dalla guerra, perché sono scampato alla morte tante di quelle volte, proprio al plotone di esecuzione, ai bombardamenti, e poi ho infilato la strada maestra, poi guidato da una mano che io nella mia coscienza penso che sia la mano di mia madre, lo spirito di mia madre che mi ha guidato sempre, perché non si spiega facilmente il susseguirsi di fatti così positivi, così straordinari. Insomma, nei primi anni 50 avevo già lavorato con tutti i grandi del mondo dello spettacolo. Zeffirelli debutta sul grande schermo nel 1957 con Camping. Scala le classifiche internazionali con La bisbetica domata nel 1967 e Romeo e Giulietta nel 68. Ma Zeffirelli è anche un grande appassionato di calcio. Il gioco del calcio è una cosa che non è stata ancora ben definita, soprattutto dagli acculturati, la gente di cultura. Non è stato capito bene che cos'è il gioco del calcio. È una situazione umana in cui tu ti trovi con decine di migliaia di altre persone, cioè altri esseri umani, tutti animati da questa energia, sia per un campo che per l'altro, che perdono ogni cognizione del loro status sociale, della loro età, della loro cultura. Un novantenne e un ragazzo di 8 anni si comportano esattamente della stessa maniera. Un miliardario e un poveretto che ha le cambiali che gli scadono si comportano nella stessa maniera. Proprio a causa della sua passione per il calcio, il successo, che sembra inarrestabile, subisce invece una battuta d'arresto. È il 1969, Zeffirelli insieme a Gina Lollobrigida va a vedere la Fiorentina. Gina guida la Rolls Royce. Qualcosa, un incidente che ha cambiato completamente la mia vita. A tutt'oggi sono qui a subire le conseguenze di quello sfortunato giorno. Avevo avuto troppo. Era tutto andato bene, troppo in fretta, troppo. Quindi era andata talmente a scapicollo tutto, che doveva finire. Io sentivo che bisognava che mi calmassi, è arrivata la botta, tac. Quell'incidente che mi ha rimesso in sesto, mi ha sfasciato, sono stato in coma una settimana e poi nell'agonia di un letto, di tutto completamente ingessato, impossibilitato a muovermi, e potevo solamente concentrarmi e riesaminavo tutta la mia storia, e mi confortò il fatto che avevo già ricevuto tanto. E in quei momenti lì l'essenza della tua fede riemerge, e la mia fede mi diceva che anche se andavo via, ormai avevo avuto tanto da Dio che potevo contentarmi. Feci un voto che se avessi scampato questo terribile periglio, avrei fatto un film su San Francesco, e così fu. Mix 24, la storia. Bentornati a Radio 24. Quella che stiamo raccontando oggi è la storia del grande regista Franco Zeffirelli. Dopo clamorosi successi nel teatro lirico e non solo, nel 69 Zeffirelli ha un incidente automobilistico che lo lascia in coma per 3 giorni. Durante l'agonia in ospedale, Zeffirelli promette che se uscirà indenne realizzerà un film sulla storia di San Francesco. È nel 71 quando comincia a lavorare a Fratello Sole, Sorella Luna. Sì, ma è un film di lunga gittata, un film cult, che dovunque lei va c'è qualcuno che ha visto Fratello Sole. Gamma sociale, la trasformazione del ragazzo da gaudente in santo era per virtù divina, per virtù dello Spirito Santo. Raccontare solamente la prima parte, la conversione, l'inizio, perché la seconda parte di San Francesco è durissima, è difficilissima, stigmate, quella roba lì, la morte, non la voglio toccare. Finì con il riconoscimento dell'ordine da parte del Papa, una grande favola, fece una grande favola. In realtà quel film lì io dovevo farlo con i Beatles. Fece una prima sceneggiatura con Suso Ciramico e Lina Vermilla, che era un capolavoro, l'avessi fatto in quel modo. Però dopo è andata bene anche così, anzi forse è andata meglio. Perché i Beatles erano il quartetto degli amici di Francesco. Questa era l'idea, tutto in musica, tutto una follia, uno sconvolgimento totale del presente, passato, futuro. Don't be discouraged, Peter. Well washed. Poi i Beatles mi avrebbero, erano pronti a darmi solamente 18 giorni, e in 18 giorni un film si va. Gli entra così come una cosa, diciamo, un po' qualunque, un po' retorica, un po' convenzionale, però dentro porta il seme di un'idea importante, fondamentale, che afferisce e ti colpisce. Warm are the doors that cool on the sill. La prima del film esce a Firenze e viene dedicata alla Pira e ai suoi poveri. Voglio farlo proprio con il professor La Pira. Dice, questo è un film che io faccio per i più piccoli del mondo e voglio che siano i più piccoli di Firenze a vederlo. È la prima, non un'anteprima, fu una prima. La prima mondiale fu a Firenze, al cinema Eccelsior, mi ricordo, per i poveri di La Pira. E c'erano tutte le prime file, erano tutti poveri, e anche dei poverini malati, un po' ritardati, un po' impediti, che non è che c'è il miglior pubblico, che è silenzioso, no, erano pieni di inquietudine continua. E dietro c'era la gente elegante fiorentina che sorgeva un po' il naso a questo accostamento, cioè, che era poi quello che io avevo fatto nel film, la messa dei poveri e la messa dei ricchi. Nel dicembre del 1974 Zeffirelli cura la regia televisiva di Mondovisione della cerimonia di apertura dell'Anno Santo. Unico regista cinematografico, come dichiara Ettore Bernabei, allora direttore generale della RAI, ad accettare la sua proposta di lavorare in televisione. Negli anni 60, quando io andai a dirigere la RAI, a fare direttore generale della RAI, cercai di coinvolgere nella televisione, nel lavoro della televisione, i registi del cinema italiano. Devo dire che nessuno accettò questa prova. Zeffirelli accettò poi di fare la regia di una ripresa diretta da San Pietro, memorabile. Anche Zeffirelli si convertì alla televisione. Nel 1976 Zeffirelli torna a collaborare col Teatro alla Scala di Milano, allestendo la sua celebre Aida, diretta da Thomas Schipper, e firmando la regia e la sceneggiatura di Otello. Per la televisione coproduce con gli americani il colossal Gesù di Nazareth. 3 anni di preparazione, io non volevo farlo assolutamente, volevo farlo perché avevo fatto San Francesco, ho pagato il mio debito, ho visto com'era difficile toccare quella materia lì, come fai a dar forma allo spirito, poi con un mezzo così modesto come è in fondo la pellicola, perché ancora con un pezzo di marmo tu puoi fare qualcosa di memorabile, o anche con la pittura, con i colori, ma con la pellicola è... pesantemente, dissi di no e di no, non voglio fare, per carità, Gesù, poi che fa Gesù, come si fa a fare Gesù, no. E finalmente mia gente mi stuzzicò nella mia vanità professionale, dice: guarda, loro lo fanno il film, scelgono te, perché gli italiani non mi volevano, la Rai italiana, avevano fatto il Mosè, che andò molto bene, dice: adesso è il momento di fare il Gesù, preferivano una cosa meno accademica come le avrei consegnato io, e avevano anche ragione probabilmente da quel punto di vista, volevano una cosa nuova. Quando ne parlarono con gli inglesi, con gli americani, dissero: benissimo, l'unico regista che lo può fare è Zeffirelli. Insomma, dettero, scattarono e dettero l'incarico a Bergman. Ma alla fine la scelta americana ricade su Zeffirelli. Sì, siamo tutti pescatori in famiglia. Andrea ci conosce bene. Io solo sono stato fuori a studiare. Forse avresti fatto bene a continuare. E cosa hai imparato? Ah, che 2 e 2 fanno 4, a volte. Che la gente è al mondo per farsi sballottare. Che cavarsela è già una conquista. Che la morte comincia con la nascita. Mi mise al lavoro subito. Mi dette un anno di tempo. Soggetto alla scelta del protagonista, perché se non trovavo il Gesù non l'avrei fatto. Fugo sempre in Inghilterra, io no, quando ho dei problemi di attori. Vado al teatro a vedere una pièce, così, e c'era un attore singolarissimo, molto divertente, grandi occhi azzurri, un colletto, ticciolini. Allora andai a trovare, e dice: vieni a Roma a fare un provino per Giuda. Io Giuda? E venne per Giuda, fece un provino e non andò bene. Si videro i Rashis con Nannuzzi, che era l'operatore, e questi occhi incredibili. E Nannuzzi disse: ma se tu c'hai Giuda con quegli occhi lì, che occhi dovrà avere questo Gesù? Sicché quello stava proprio partendo, andarono a riagguantare, lo portammo a Cinecittà, tutti i reparti addosso, chi ne mise la barba, che i capelli lunghi, chi le luci, tutto quanto, tutto pronto per un provino di fisico. E c'era una sciarpa che adopravano gli ebrei, come adoprano gli arabi, una lunga sciarpa, e quella lì era corta, allora divisa a metà, e gli disse alla sarta: cucimela così, per favore, cucimela. E mentre facevano l'aereo, e io continuavo a dire: ma questa sciarpa non arriva, porca miseria, porta la sciarpa, che non c'è l'attore lì pronto. Finalmente arriva la sarta e dice: maestro, ecco la sciarpa, dice: dalla all'attore. Lei si voltò verso di lui, cascò in ginocchio dicendo: oh Dio mio! E rimase così. Io dissi: abbiamo trovato Gesù. Piazzi la macchina da presa e dice a un attore di fare una certa cosa, di dire una certa cosa, lo illumini e racconti un settore della tua storia. In quel momento tu devi capire che quello che stai facendo sarà visto da milioni di persone, oppure di decine di migliaia, ma una moltitudine. Ogni volta che mettevo la macchina per il Gesù, siccome presupponevo che il programma avrebbe avuto un grande ascolto, più di un programma qualsiasi, non per presunzione mia, ma per l'importanza che stavano dando a questo programma, avevo veramente terrore. Quello che mi salvava è perché i nostri ordini del giorno erano ridicoli. La mattina, se è bel tempo, risurrezione di Lazzaro. Se piove, crocifissione. Pomeriggio, perché era inverno, fa scuro tardi, quindi entriamo nella, nel studio numero 3 dall'ultima cena. Erano cose di questo genere. Rappi, sono stati convocati i padri e gli anziani del Sinedrio. Io ebbi un solo ostacolo, proprio un blocco, che fu la resurrezione, che non sapevo come farla, non sapevo. E pensavo soluzioni, veniva lui, ritornava come viandante, ritornava come lui quando era, oppure ritornava uno spirito, si sentiva la presenza, cioè, e nessuna di queste cose funzionava. Poi mi è successo dell'apocalisse addirittura, mentre stavo girando la resurrezione, eravamo in Marocco, una tempesta di sabbia che ci seppellì tutti. E d'altra parte Monsignor Romano mi disse: guarda Franco, che se non c'è la resurrezione non c'è, non solo non c'è il film, non c'è il cristianesimo, tu devi trovare la soluzione. Questo quando il film era stato fatto, che non c'era la resurrezione, perché finiva con quel nemico giurato di Gesù che, quando apprende che la salma è scomparsa, e dice: adesso tutto comincia, ed era un bel finale elegante. Invece no, ci vuole la resurrezione. E allora trovai, una notte mi svegliai di colpo e dissi: ma io l'ho girata la resurrezione, ho girato un provino, perché abbiamo fatto tanti di quei provini di costume, di trucco, eccetera, un provino troppo di Gesù con tutti gli apostoli intorno. Sicché mi svegliai, andai a svegliare gli edificanti, andiamo a frugare dappertutto, trovammo questo provino che ho messo alla fine. È Gesù che torna, che è tornato tra gli apostoli: sarò con voi fino alla fine del tempo. Sulle luci della ribalta per la carriera, Franco Zeffirelli è molto riservato rispetto alla vita sentimentale, ma nel 1997 la rivelazione arriva in una sua intervista alla rivista americana Advocate, in cui parla della sua esperienza omosessuale. Intanto era a San Francisco, questa intervista era a San Francisco, a Francisco 47 la popolazione maschile è omosessuale, quindi era difficile fare uno sgarbo a questa, oltretutto. Dice, veniva l'atmosfera per dire: beh sì, tutti più o meno l'abbiamo fatta certe esperienze. Io non ho mica detto altro, non ho mica detto che la mia professione di vita è quella. Ho detto che ho fatto delle esperienze omosessuali, come ci sono, penso che tre quarti dell'umanità maschile abbia fatto in età varie. Noi sappiamo benissimo cosa vuol dire dover affrontare un certo dilemma nella vita, che è uno straccio, è una contraddizione che veramente ti mette tutti i tuoi parametri su sopra. E poi di fronte a Dio, siccome sono cattolico, di fronte a Dio è un problema che devo risolvere io. Nel 1994 inizia la sua carriera politica. Eletto senatore della Repubblica nelle liste di Forza Italia a Catania, viene rieletto nel 1996. Tra il 1996 e il 99 dirige i capolavori Jane Eyre e Un tè con Mussolini, parzialmente autobiografico, e continua a collaborare con il teatro lirico e a firmare regie di grandi opere. Così Franco Zeffirelli unisce esperienza e fede per realizzare i capolavori che hanno portato l'Italia nel mondo. Ho appreso sulla mia pelle, sul mio sangue, che cosa è giusto e cosa non è giusto, cosa si deve fare per trovare una strada, imparare un mestiere, selezionare bene le nostre possibilità, lasciare la finestra aperta al vento e al sole, in modo che qualunque cosa arrivi forse ti può dare una spinta per andare avanti. Io lo so e vorrei comunicare questa fiducia ai giovani. Mix 24, la storia. Maestro Giorgio Albertazzi, qual è la qualità più grande di Franco Zeffirelli? Che è un artista dello spettacolo. Siamo nati insieme, siamo amici da sempre, da quando facevamo il teatro amatoriale a Firenze, e poi via via la vita ci ha visto insieme fino al culmine, che è stato l'Amleto a Londra nell'anno shakespeariano. Forse non tutti lo ricordano, ma il 64 vide un Amleto italiano celebrare Shakespeare per il quarto centenario a Londra, al Teatro Nazionale Inglese, per 21 giorni. successo incredibile. Come si deve a Zeffirelli tutto questo? Il suo merito è questo. Lui è un grande scenografo, forse il più grande scenografo insieme a Gherardi, insieme a Tosi, che ha avuto l'Italia. E poi un regista magistrale. Certi suoi film sono indimenticabili. E anche sulle cose teatrali, perché prima dell'Amleto, che comunque fu un avvenimento che occupò la copertina del New York Times, voglio dire, la scenografia di Franco con quella specie di buco ancestrale sul palcoscenico, quella fossa dalla quale io dicevo l'essere o non essere. Prima l'avevamo fatto dopo la caduta, After the Fall di Miller con Monica Vitti, la dolcissima Monica. Quindi anche oltre che scenografo, un grande regista. Sicuramente, sicuramente. Naturalmente anche lui ha avuto delle difficoltà, come sempre. Tutti coloro che non stanno nella scia, l'Italia è un paese bigotto, in modo politicamente, in modo terribile proprio, assolutamente, va detta questa cosa. Quindi ha avuto difficoltà in Italia, per molto tempo è stato considerato come uno che fa del florilegio, insomma, delle bellurie, così. Invece è un regista, anzi, è un regista soprattutto di contenuti, anche se nel cinema la forma, come si sa, è fondamentale. Il cinema è pelle e il teatro è psiche. Qualcosa che vorrebbe aver imparato da lui? Ho imparato il sorriso, è strano a dirsi, ma ho imparato il modo di lavorare leggero, in senso calviniano di leggerezza. Franco è così, il gioco è sempre la sua vita, anche adesso è così, che non ha più 20 né 30 anni né 40 anni come me esattamente. Lo considera un amico? Abbiamo la stessa età. Franco, ti voglio bene. Arrivederci presto. È un uomo che resterà nella storia del cinema? Ma certo che resterà nella storia del cinema. Basterebbe la bisbenica domata con Richard Burton e Taylor perché resti nella storia del cinema. Ma non solo, ma anche il suo Francesco. Si ha un bel dire. È un grande regista. E del teatro? Del teatro, l'Amleto sicuramente. L'Amleto è un dato fondamentale nella storia del Novecento perché non so se si capisce bene cosa vuol dire l'anno di Shakespeare a Londra. Shakespeare è inglese, vero, certo, signori cari? Allora, in quell'anno c'erano nel mondo quattro Amleti. C'era quello di Peter O'Toole a Londra, c'era Richard Burton a New York, c'era Maximilian Schell in Austria, c'era Barola a Parigi e Olivier, direttore del Teatro Nazionale Inglese, sceglie l'Amleto di Zeffirelli e Albertazzi per celebrare il quattrocentenario. È un avvenimento che un altro paese avrebbe salutato con le clarine. In Italia non se ne parlò, non solo, ma l'Italia, la televisione italiana quell'anno, nella persona di Leone Piccioni, amico anche lui per me d'infanzia, ma comunque direttore della Rai, comprò sì un Amleto, ma non quello di Zeffirelli e Albertazzi, no, comprò il peggiore Amleto nel mondo, quello di Maximilian Schell. Auguri Rai, brava Rai, brava Rai. Senta, la sua è una carriera incredibile, qual è il suo prossimo appuntamento? Il prossimo appuntamento avrebbe dovuto essere una esibizione nelle università americane con insieme al Pacino per una revival di Montale, ma probabilmente salta perché io non me la sento di stare due mesi fuori dall'Italia per tante ragioni, perché ho degli impegni qua. Quindi noi stiamo facendo adesso una cosa che è il Mercante di Venezia per la seconda volta. I teatri sono sold out in tutta Italia, il Veneto è tutto esaurito adesso. Da adesso, un mese prima ci andiamo. La verremo a vedere. La versione americana di Calvino, che è un'altra specie di bestseller. E poi ho delle idee in testa, ma insomma queste non le voglio tanto dire. Le aspettiamo con ansia. Grazie. Tutte le puntate di Mix 24 e della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it, nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio, Rachele Bonanni e il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.